Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM, Rock FM, Rock FM, sono le 7:30 minuti primi. Problemi? If you have a problem, qui parecchi, sì. And if you can find them, noi un po'. Maybe you can hire the A-team. Benvenuti sulle frequenze di Rock FM, gruppo d'ascolto di chi di notte fa il lavapiatti e di giorno l'operaio. Siamo in squadra con te, fratello, tieni duro. Saluti ad Andrea Gorgonzola, sub da Firenze, che lancia un nuovo appello, Ariel for President, ok, ci penserò. Daniela e l'Angelica di Firenze, Tiziano, Livorno, radio di servizio tangenziale ovest, Milano, direzione Linate, all'uscita di San Donato, camion fermo in seconda corsia, grazie Steve. Ottima segnalazione. Un saluto anche a Teo, Giulia Miss, svegliati, e Vise, non è il Vise come quello di Mike. E chiudiamo con... Ah, questo non è male. A proposito di gente che c'ha il suo bel da fare quest'oggi. Ciao Lariele e Freak, oggi vado a cambiare i mobili scelti dalla mia ex. Serve qualcosa? Un tappeto, credenze? Comunque, come dicono gli scarabatti, lascia che sia. Bravo. Gli scarabatti, per chi non lo sapesse, è la nostra band di canzoni dei Beatles in italiano. Questa settimana non si scappa e ce n'è una nuova. Per forza, da contratto. Monkey, monkey. riusciremo a ringraziare la nostra redazione nella persona di Isaac Rizzi per le notizie che giorno dopo giorno ci segnala. Un 22 di ottobre che potrebbe essere gettato lì nel nulla, quando invece, caro Freak, troviamo delle notizie importantissime. Sa cosa successe il 22 ottobre del 1964? Non lo so, me lo dica lei, per favore. Glielo dico subito, il mitico Jean-Paul Sartre ottenne il premio Nobel per la letteratura! Ah, che rabbia, no, che rabbia! In che senso? Che invidia! Invidia insopportabile! Non deve invidiarlo, perché sa cosa accadde in quell'occasione? Sì. Il buon Sartre rifiutò il premio Nobel, perché a suo avviso, citando Paul Sartre, nessun uomo merita di essere consacrato da vivo. E senta un po', aveva già rifiutato la Legione d'Onore nel 1945 e una cattedra al Collegio di Francia. Secondo lui questi onori gli avrebbero alienato la sua libertà, facendo dello scrittore una istituzione. Che uomo Jean-Paul Sartre! Sì. Io sono certo che se anche lei, Freak, sì, dovesse mai vincere il premio Nobel... C'è del buono, sì. Io lo nel caso lei dovesse ricevere il premio Nobel, lei mi consiglia di rifiutarlo? Certo, ma senta, ma vuole ma mettere, ci stavo che figura? Pensando, ma non che so. Ci fa un figurone. Denaro? Credo sia un po' un premio in denaro o una targa il Nobel, sì. Ma la targa è dorata, la targa è... Dovremmo chiedere argentata. A Isaac. Isaac, informati subito se la targa è dorata. Ma se no si potrebbe fare così. Tipo? Mi tengo la sommetta, sì, e restituisco la targa. Rifiuto a metà. Beh, insomma, ci devo pensare, sono passi importanti. È una targa automobilistica. No, di che targa si tratta? No, niente, va bene. Tanto non ce l'ha il Nobel. Per ora. La vedremo. E beh, che c'è? Satellite's gone up to the sky. That drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. And cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Da da da da da da da da. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite. è un satellite d'amore quello che gravita sopra le vostre teste. Mr. Lou Reed. E a me la giornata si svolta al volo, grande, che roba. La buona musica, le buone vibrazioni di Rock FM alle 7:41 minuti primi, vedete, eh? Qui a Pane, Burro e Rock and Roll stiamo sul pezzo. Da quando abbiamo la redazione, ci si sciacqua la bocca. Va bene, andiamo a occuparci un po' dell'interazione, che quest'oggi veramente mi preoccupa un pochetto. Non per voi, che siete i soliti, ormai vi abbiamo capito, siamo in squadra insieme, quindi non potevamo aspettarci nient'altro che non voi così come siete. Sono preoccupato dalla mia capacità di gestire qualsiasi cosa quest'oggi, quindi verremo travolti da Pane, Burro e Rock and Roll. Intanto saluti al gruppo d'ascolto Sono Troppo Rock, ho appena finito di lavorare. Franz Max si aggiunge ad Ariel for President, Antoni for King e Topa Forever. Va bene, sì. Contenti voi. Il notturno, il buon fa, sempre presente quest'oggi in giro in Vespa con inizio glaciale crepuscolare, ma sono più che altro preoccupato fortemente da una mail che è arrivata ad aria@radiorockfm.com in riferimento a una cosa saltata fuori nella puntata di venerdì. Io spero sempre, ho sempre un po' la speranza che quello che diciamo poi cada nel vuoto. Invece non è così, che là fuori c'è qualcuno che si appunta sempre tutto. Allora, nella puntata di venerdì, qualche folle, vista la mancanza dell'omino che fa jogging ormai da settimane, è ufficiale, è morto. Venerdì qualche pazzo diceva: ok, allora raduno ufficiale di joggeristi di Pane, Burro e Rock and Roll, ammesso che ce ne siano, e in realtà ci sono, perché in molti hanno segnalato che di mattina hanno questo vizietto di andare in giro a corrersela un po'. Noi dicevamo: qua da Pane, Burro e Rock and Roll la nostra religione ci impedisce di fare queste cose, quindi se volete farle voi per noi potremmo darvi una mano. La mail che mi spaventava a questo riguardo recita così. Io leggo tutto, ragazzi, però poi permettetemi in maniera molto paracula di togliermi, di prendere le distanze da quello che scrivete. Ciao Ariele, se volete che la nicchia trionfi e volete anche battere Radio DJ sul suo stesso terreno, mettiti a correre in via Vittor Pisani con l'omino. Tanto Linus è una sega, se ti alleni un mese vai di sicuro più forte di lui. Signor Di Molfetta, nel caso stessi ascoltando questo intervento, io Ariel mi dissocio, perché so che lei è molto bravo. L'ha scritto un ascoltatore, ma io, essendo rock, leggo tutto, però, ripeto, io me ne lavo le mani. E se anche tu vuoi correre in via Vittor Pisani, noi siamo qua, pronti ad accoglierti. Abbiamo comprato un megafono anche apposta, così apriamo la finestra e vi gasiamo. Adesso non ce l'ho il megafono, l'ho dimenticato in furgone, che è qua sotto che mi aspetta. Sì. Avete mai imparato a volare? No, non quando bevete, a volare così metaforicamente. Vabbè, imparate adesso, via. Into the distance, ribbon of black, stretch to the point of no turning back. Fly to fancy on a windswept sense is real, fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky, tongue tied and twisted, just an earthbound history. I'm Tamburi. Eccoci pronti ai compleanni di quest'oggi, 22 di ottobre. Chi nacque? Chi? Nacque nel 1920, nella giornata del 22 ottobre, sì, il grande Timothy Leary. Ah, scrittore e professore americano, proprio lui, noto per le sue posizioni e il suo attivismo in favore dell'uso delle droghe psichedeliche. Ai ai ai. Un cattivo maestro, attenzione. In qualità di fautore dell'acido lisergico, l'LSD negli anni 60, però coniò e rese popolari degli slogan che secondo me dovremmo rubargli al volo, caro Freak. Senta qua: turn on, tune in, drop out. Accidenti, allora vado a tradurre. Vado. Allora, turn on significa accenditi. Certo. Tune in, sintonizzati. Sì. E naturalmente drop out, lasciati andare, abbandonati. E allora accenditi, sveglia la mente, apri le porte della percezione, sintonizzati, entra in sintonia con l'universo, comprendilo, ascolta. Mi sento già fatto solo a dirlo. Anche perché drop out significa abbandonati, sentiti parte di quell'universo e muoviti in esso, con esso, per esso, in esso. Voi sintonizzate su Rock FM, che già è un buon passo. Passiamo al 1921. Nasceva il poeta, scrittore francese, cantautore Georges Brassens. Ci canti subito un suo successo, Ma Frigli. Oui, ma oui, ma oui, je suis Paris, valon d'enfant. Lei sta scazzando. Lei non conosce Georges Brassens. No, non c'entra niente. Però guardi, le è andata bene perché è anche il compleanno di Catherine Deneuve. Oui, je suis Catherine Deneuve. Nasceva oggi nel 1943. Mi ricordi subito una sfilza di film. Ah, eccolo, colpo di scena, no, perfetto, perfetto, sì. Ricordo. Allora, ricordo perfettamente, sì, Catherine no, Deneuve. Catherine Deneuve è francese, maestro. Deneuve. Deneuve. Deneuve. Vabbè, i film. D'accordo, Ci dica i film. Allora, ho visto tutti i suoi film. Perfetto. È stata una grandissima interprete, ecco. Allora. Vediamo, se li ricorda. È di colore. No, è francese. Colpo di scena, era francese, sì. Bianca. Dei film, le vado a ricordare, allora, o li ricordo io? No, assolutamente. Ok. Allora abbiamo Repulsion, sì, esatto, di Roman Polanski. Perfetto. Molto bene. Bella di giorno, esatto, di Louis Buñuel. Quello di Truffaut, se lo ricorda. Quello di Truffaut, sì, era l'ultimo metrò di Truffaut. Grazie mille, maestro. Ma questo Fricuncio Truffaut aveva, sì, un metrò suo? L'ultimo Truffaut di metrò? Brutta. L'è venuta malino, ma la teniamo, dai. Siamo in diretta. Little Wing, 7:54 minuti primi, manca poco al termine della prima ora di diretta e a seguire un'altra gustosissima ora di pane, burro e rock and roll. Ricordo i prossimi appuntamenti nell'imminente Topo Rogna e Topo Frigo, ormai un must, i nostri opinionisti dei piccoli topi, cavie da esperimento che ci aiutano nella costruzione di pane, burro e rock and roll. Essendo lunedì, andremo ad ascoltare invece un nuovo film che ci terrà compagnia fino a venerdì. Settimana scorsa ci aiutarono la premiata coppia Benigni Troisi per Non ci resta che piangere. Anche quest'oggi la redazione ha selezionato un film classico della cinematografia italiana che ci terrà compagnia con un paio di interventi al giorno fino a venerdì. Lo scopriremo insieme tra pochissimo. Restate sulle frequenze di Rock FM, ovviamente. Vi accogliamo a braccia aperte al 335-100-7777. Some people call me the space cowboy. E invece mi chiamo solo Ariele, fondamentalmente. Some call me the gangster of love. Però sono un po' il gangster of love, sì. Some people call me Maurice. Yeah. Steve Miller Band, The Joker. People talk about me, baby. say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Stavo pensando a un nuovo discorso per la nostra conquista dell'universo. Te lo posso far sentire, eh? Vai, Rogna. Cavie, topolini, oggi vi dico, non indugiamo nella valle della disperazione. Anche di fronte alle difficoltà dell'oggi e del domani, io ho ancora un sogno. È un sogno fortemente radicato nell'immaginario delle cave da esperimento. Ho un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé stesse evidenti, che tutte le cavie da esperimento sono state create uguali. Cazzo, ti è andato roba buona ieri, eh? Eh sì, è quel nuovo farmaco francese, credo una crema autobronzante. Roba buona.